2024 2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati a 2024, benvenuti, questa è la puntata del 16 febbraio 2013, io sono Enrico Pagliarini, oggi Pietro Lacorte si occupa della parte tecnica, il nostro indirizzo di posta elettronica se volete comunicare con noi è 2024@radio24.it, potete utilizzare anche la nostra pagina Facebook o anche Twitter, ma soprattutto nella seconda parte aspettiamo anche le vostre telefonate, il nostro numero verde 800240024, se volete già prenotarvi parleremo di musica digitale in streaming, argomento molto interessante. Iniziamo però con una parola che cominceremo nei prossimi anni a utilizzare sempre più spesso, la parola drone o droni, e non parliamo dei droni militari che già da tempo vengono utilizzati in parti remote del mondo per operazioni militari, soprattutto gli Stati Uniti hanno utilizzato e continuano a utilizzare questi strumenti, anche noi italiani ne abbiamo e li produciamo anche. No, parliamo di mini droni, quelli che si possono acquistare e si possono utilizzare tranquillamente, e anche su questo poi ci dovremo intendere nei prossimi anni. Poche centinaia di euro e compriamo un piccolo o elicottero o un quadricottero, ne sono stati presentati recentemente. Beh, allora negli Stati Uniti soprattutto c'è un dibattito piuttosto acceso sull'uso di questi droni che sempre più spesso vengono utilizzati dalla polizia per controllare dall'alto i quartieri delle città o vengono usati in alcune azioni di lotta alla criminalità. Ma questi droni vengono oramai utilizzati anche in altri ambiti per fare ricerca, per fare monitoraggio di tanti tipi, per fare fotografie aerei. Beh, allora, se ne sta cominciando a parlare già da qualche tempo anche in Italia e anche in Europa, ma la prossima settimana e comunque nelle prossime settimane ci saranno delle riunioni tecniche per stabilire se e quando questi droni possono essere utilizzati e come devono essere utilizzati. Se ne sta occupando addirittura l'ENAC, quindi una delle autorità che si occupano del volo aereo in Italia. Ne parleremo presto perché questo è un argomento sicuramente interessante che rispetta il format della nostra trasmissione, visto che ogni settimana parliamo di come la tecnologia ci cambia la vita. Beh, sicuramente i droni ci cambieranno la vita molto nei prossimi anni. Questa settimana probabilmente alcuni di voi sapranno che il 14 di febbraio non era solo San Valentino, ma anche il giorno di uscita di Surface in Italia. Surface è il tablet presentato dalla Microsoft già in ottobre negli Stati Uniti, il primo tablet di Microsoft. Ne abbiamo parlato con Claudia Bonatti, che è il direttore della divisione Windows di Microsoft Italia. È un tablet per l'architettura ARM, quindi si chiama Surface RT, il sistema operativo è Windows RT, che abbiamo visto già anche su altri device che sono già in commercio in Italia, ed è un tablet che è nato completamente, interamente dai centri di sviluppo di Microsoft. L'abbiamo disegnato, inventato, cercando veramente di ottimizzare al meglio tutti gli aspetti hardware, tutta la componentistica, i materiali. Abbiamo realizzato un tablet molto leggero, molto resistente e estremamente versatile. È la prima volta che voi fate un prodotto hardware? No, Microsoft sono 30 anni che fa prodotti hardware. È la prima volta nel mondo del computing. La prima volta nel mondo del computing, anche se forse Xbox è un prodotto molto complesso. Quindi abbiamo una storia di mouse e tastiere, abbiamo Xbox, abbiamo Kinect, quindi senza scherzare è una storia veramente molto importante che ci ha aiutato a sviluppare questo prodotto, perché molto del know-how accumulato in questi anni è stato portato all'interno di questo prodotto. L'interfaccia utente, che è sicuramente una delle cose che vi contraddistingue negli ultimi mesi perché l'avete rinnovata con Windows 8, è una delle caratteristiche principali. Che differenze ci sono tra questa, che abbiamo specificato essere RT, e il più classico Windows 8 che sta sui PC? Allora, la differenza fondamentale è la compatibilità del software. Io su una macchina Windows 8 o Windows 8 Professional posso installare qualsiasi software fosse compatibile con Windows 7. Sui Windows RT posso installare solo software, app provenienti dal Windows Store, quindi disegnate apposta per Windows RT. Per i software più, diciamo così, tradizionali abbiamo già preinstallato Office, quindi appunto io ho anche uno strumento di produttività, ho Word, Excel, PowerPoint e OneNote già preinstallati su Windows RT. Quanto costa questo prodotto? Allora, l'entry level, come diciamo, il primo prezzo è 487 euro per la versione da 32 giga senza la tastiera. Allora, diciamo una cosa per completezza, esiste sì. Un altro prodotto che si chiama Surface, yes. Che però non è ancora arrivato in Italia, che si chiama Pro, che differenza c'è e quando arriverà? Allora, la differenza è che Surface Pro è basato sul sistema operativo Windows 8 Pro, è basato su architettura Intel, quindi di fatto è un PC. È un computer. È un computer. Sì. È poco più pesante e poco più spesso, diciamo, di Surface RT. Non abbiamo ancora una data di rilascio per il mercato europeo, ma siamo confidenti di vederlo in tempi non lunghissimi. Quindi Surface RT è sicuramente l'alternativa proposta da Microsoft ad iOS, quindi ad iPad e anche a tutti i tablet Android per naturalmente l'ambiente Windows. Sicuramente tra le caratteristiche importanti, tra i plus di questo prodotto c'è l'integrazione di Office, perché uno compra un prodotto con Office già integrato. Purtroppo non esiste la versione 3G, esiste solo la versione Wi-Fi, ma insomma è sicuramente una alternativa ad altri prodotti che sono sul mercato. Adesso parliamo di security. La scorsa settimana abbiamo parlato della strategia che l'Europa si sta dando per aumentare la sicurezza delle reti e dei servizi digitali, una cosa fondamentale e importantissima. Ci sarà un maggiore coordinamento tra i paesi, tra le istituzioni e tra le aziende più esposte. E come ha detto Catherine Ashton, che abbiamo sentito la scorsa settimana, se vogliamo utilizzare una rete internet libera, questa rete deve anche essere sicura. Ma quanto è sicura? Come stanno le cose in Europa? Ne parliamo con Corrado Giustozzi, che fra i massimi esperti di sicurezza informatica in Europa e tra le altre cose è membro del board tecnico dell'ENISA. L'ENISA è l'Agenzia Europea per la Sicurezza delle Reti. Giustozzi, benvenuto a 2024. Grazie, ben trovati. Partiamo proprio da una domanda semplice e capisco che la risposta non può essere altrettanto semplice. Quanto sono sicure le infrastrutture digitali in Europa, pensando che la nostra vita e i servizi che noi utilizziamo tutti i giorni sono in gran parte dipendenti da questi network e da questi servizi digitali? Sicuramente sono dipendenti in gran parte e lo saranno sempre di più. Allora, il livello attuale di sicurezza è difficile stabilirlo, diciamo, con un criterio semplice, però è ragionevole, è ragionevolmente alto. Il problema è che il mondo non sta fermo, le minacce crescono, si moltiplicano, cambiano giorno dopo giorno, quindi non bisogna rimanere fermi, arroccati sulle proprie posizioni, ma aggiornarsi altrettanto velocemente di quanto fanno le minacce, quindi c'è sempre qualcosa da fare. Possiamo dire che la risposta dell'Europa, che anche in questo caso è una risposta molto complessa su più livelli, è una risposta adeguata ai tempi o siamo un po' in ritardo? Il problema dell'Europa è che le varie nazioni hanno la libertà di regolarsi autonomamente, quindi non esiste una risposta univoca dell'Europa a nessun problema. Mettere d'accordo 27 nazioni è sempre problematico, ci sono nazioni più all'avanguardia, più veloci, nazioni che arrivano dopo, e questo succede anche nella sicurezza informatica. Il tentativo dell'Europa è proprio quello di dare delle linee guida, delle direttive tali da raggiungere un livello minimo comune di tutti gli Stati membri su tutti i fronti della sicurezza delle reti e delle informazioni, che non sono solo quelle dei possibili attacchi alle infrastrutture critiche, ma sono quelle della protezione contro il cybercrime, della tutela dell'identità digitale, della privacy, a beneficio dei cittadini, delle imprese e in generale della democrazia. Quindi sì, sicuramente la risposta dell'Europa è attenta, perché non siamo in ritardo con i tempi. Le singole attuazioni dipendono dai singoli contesti nazionali e quindi non sono a volte allineate. Sì, quindi possiamo dire e magari fare anche un appello all'Italia e alle future forze che governeranno il nostro paese che questo è un aspetto da tenere in forte considerazione, forse fino ad oggi non se n'è almeno parlato a sufficienza. Sì, se ne parla poco purtroppo, queste notizie, questi temi finiscono di solito sulle copertine dei giornali soltanto quando ci sono fatti eclatanti, hackeraggi di istituzioni o siti famosi. In realtà è come la criminalità ordinaria, c'è sempre, c'è tutti i giorni, tutti possiamo essere vittime, tutti possiamo e dobbiamo fare qualcosa, ovviamente le istituzioni per prime, le aziende, ma anche i privati, per cui che se ne parli è molto importante, che si faccia informazione corretta, perché poi purtroppo spesso l'informazione su questi temi viene spettacolarizzata, c'è sempre l'hacker cattivo, oppure l'hacker visto come Robin Hood, c'è il mito di Anonymous, ma non sono solo questi i problemi e bisognerebbe affrontarli in un modo un pochino più metodico e istituzionale. A proposito di pericoli, di cose che accadono in rete, se noi facendo un paragone con la criminalità ordinaria, quella del mondo offline, probabilmente molti cittadini saprebbero fare un elenco dei possibili pericoli e quindi delle minacce che noi abbiamo. Ecco, se volessimo fare una breve lista di cose che succedono online e di minacce alle quali dovremmo purtroppo in questo caso non noi direttamente, poi magari ti chiederò anche se noi possiamo fare qualcosa, ma in generale le istituzioni che cosa possono fare rispetto a queste minacce, quali sono queste minacce? Ma alcune minacce sono sotto gli occhi di tutti, il phishing, cioè ricevere mail che sembrano provenire dalla nostra banca, che ci chiedono le credenziali, quello credo che a tutti capiti frequentemente di ricevere mail del genere, quello non sono scherzi da bambini, quella è criminalità organizzata che cerca in questo modo di carpire le credenziali dei conti correnti bancari o delle carte di credito alle vittime, e c'è una quantità di gente che abbocca a questa truffa straordinaria, le stime sono che circa il 5% dei destinatari cade nel tranello e comunica le credenziali. Quindi nonostante se ne parli, perché mi verrebbe da dire, beh, ormai ne parliamo da tanti anni, chi ancora abbocca? Invece ce ne sono ancora molte persone che ci cascono. Ma d'altronde tutti gli anni, soprattutto nel periodo estivo, leggiamo sui giornali dei soliti finti esattori delle municipalizzate che vanno a casa delle persone anziane e truffano loro i soldi. Anche di quello se ne parla da tanti anni, lo sappiamo tutti, sì. Eppure continuano a cascarci le persone. I ladri esistono da migliaia di anni e il cybercrime in realtà non è nulla di nuovo, è un modo nuovo di fare cose vecchie. Nel Medioevo ci si vestiva da monaco, si bussava alle porte del castello e si rapinavano gli abitanti del castello. Oggi ci si traveste da banca o da un'altra istituzione, ma il principio è sempre lo stesso. Altre cose un po' più complesse da comprendere per noi utenti della rete normali? Allora, il fatto che moltissime persone, cittadini, ma anche piccole aziende, studi professionali non si proteggono perché questo è molto grave e la giustificazione che si danno è: ma io non ho nulla di interessante, io non sono un'azienda, non ho dati importanti, io sono uno studio di architetto piuttosto che di commercialista, un'azienda che fa scarpe, quindi non sono appetibile a eventuali malintenzionati, quindi perché mi devo proteggere contro gli hacker? Ecco, questo è sbagliato. Quello di cui vanno a caccia i cattivi, che non sono solo gli hacker, bisognerebbe aprire una parentesi, non abbiamo tempo. Sì, molto lunga, esatto. Esatto. Sono proprio persone o piccole aziende che hanno una connettività e che non sono difese e li utilizzano come schermo, come teste di ponte per svolgere le loro attività cattive facendo perdere le tracce, esattamente come chi va a rapinare una banca non ci va con la sua automobile ma ruba una macchina e ci va con quella. E quale macchina ruba? La macchina più indifesa che trova, quella senza antifurto, quella con le sicure alzate. Ecco, allo stesso modo le nostre connessioni di caso delle aziende possono essere utilizzate, vengono utilizzate per compiere reati da parte dei reali criminali che così fanno perdere le tracce. Questo già di per sé è un motivo sufficiente perché la gente si convinca che deve proteggersi anche se non ha nulla di diretto da diciamo da, di valore in senso virtuale da dare ai criminali. Sì. Si dice spesso che la sicurezza è, ma l'abbiamo del resto detto anche in questa chiacchierata finora, buona parte della sicurezza è basata sull'attenzione, quindi anche c'è un aspetto culturale molto forte. Dal punto di vista tecnologico, dobbiamo ancora pensare che i sistemi, li chiamiamo antivirus per semplificare molto, siano sufficienti o in realtà non sono sufficienti, ma necessari naturalmente? Sono sicuramente necessari, corretto. E soprattutto non è soltanto necessario averli, ma è necessario averli e tenerli aggiornati. Perché, come dicevamo prima, le minacce cambiano, si evolvono, si moltiplicano con una frequenza elevatissima, una grandissima rapidità. Allora, un antivirus di oggi non è più come un antivirus di qualche anno fa, quindi non guarda più solo i virus e solo in modo statico. Oramai gli antivirus moderni sono oggetti molto più complessi, che sono in grado di sorvegliare il funzionamento del computer, controllare l'eventuale insorgere di minacce di vario tipo. Quindi un antivirus moderno, aggiornato, è sicuramente necessario e importante. È sufficiente? Dipende da quello che facciamo. Per il computer di casa probabilmente sì, per il computer dell'azienda sicuramente no, serve qualcos'altro. Dipende però da appunto chi siamo, che facciamo, qual è la nostra attività e quindi qual è il rischio di possibili azioni malevole nei nostri confronti. A proposito dell'Italia, visto che l'Italia è ricca, anche se ultimamente soffrono molto, di piccole e medie imprese, dal tuo punto d'osservazione c'è attenzione verso questi temi, verso questi problemi o poca, visto che anche nelle piccole aziende molti dei dati, e noi lo diciamo settimana dopo settimana, dovrebbero essere ancora di più digitalizzati, ma in ogni caso qualcosa negli ultimi anni è successo. Ecco, visto che buona parte del patrimonio, senza poi parlare della proprietà intellettuale, dei brevetti eccetera eccetera, è diventata digitale, c'è attenzione alla protezione o mica tanto? Guarda, hai toccato un punto importantissimo. Nella mia esperienza la piccola e media impresa non è affatto sensibile a questo tipo di problematiche. Risponde, perché le vede come inutili, per quello che dicevo prima, ma faccio bulloni, ma cosa viene a fare un hacker sui miei sistemi? Non ho nulla da proteggere, quindi non mi proteggo. Fanno le cose se sono obbligate dalla legge, e quindi faccio il DPS della legge della privacy perché altrimenti ho delle sanzioni e vado in galera. Adesso che non è più obbligatorio il DPS, tutti hanno smesso di farlo, mentre quello sarebbe stato uno strumento importante di crescita culturale dell'azienda, perché comunque era un momento di riflessione sui rischi, sulle misure di sicurezza, eccetera. Purtroppo la sicurezza viene vista come un costo inutile. E è una disciplina sfortunata, la sicurezza quando funziona non si vede niente. Ovvero non si vede niente, non succede niente in quanto la sicurezza funziona, è nel momento in cui succede qualche problema che si capisce se c'era. E la sensibilità dovrebbe essere molto maggiore, soprattutto nei piccoli. Banalizzo un esempio, oramai la maggior parte dei dirigenti di tutte le aziende non ha più un computer fisso, una scrivania, ma ha un portatile perché la persona sta sempre in giro sul territorio. Ecco, poche aziende capiscono che la perdita di un portatile non sono i 500 euro di costo della macchina, ma sono i dati che stanno sopra, le email, la contabilità, l'elenco dei clienti e dei fornitori, le strategie, se ne accorgono quando è troppo tardi. Eppure queste cose succedono all'ordine del giorno, succedono sempre di più perché il nostro mondo è sempre più fatto di aziende virtualizzate, di persone che si muovono sul territorio, di comunicazioni sempre più sofisticate. Un'ultima domanda, possiamo sperare che in un prossimo futuro questi siano problemi risolti intrinsecamente all'interno dei sistemi, cioè io compro sistemi che sono sicuri, come si dice, by design, e quindi non mi devo più preoccupare di ciò, o è un po' come dire, sulle automobili, vabbè, c'è l'airbag oggi, c'è l'ABS, ma io devo stare attento perché se mi schianto contro un muro mi ammazzo. Esatto, guarda, il paragone è perfetto, è proprio come l'automobile, le strade diventano sempre migliori nella qualità, le automobili hanno dispositivi sempre più sofisticati, ma questo non autorizza il guidatore a non saper guidare o a guidare ubriaco o a non rispettare la segnaletica o a fare manovre pericolose. Il guidatore viene facilitato perché in condizioni di emergenza alcuni sistemi automaticamente prevengono determinati rischi, ma il guidatore deve essere consapevole dei rischi e sapere quello che fa. Allo stesso modo, per quanto le infrastrutture possano essere intrinsecamente sicure, se una persona cade nella truffa e dà il suo numero di carta di credito a uno sconosciuto, oppure apre le porte di casa sua a uno sconosciuto, o comunque fa delle azioni pericolose, non c'è tecnologia che tenga, il danno verrà fatto. Quindi serve sicuramente un miglioramento delle infrastrutture, delle tecnologie, e di questo i governi si stanno preoccupando, ma altrettanto importante in parallelo una maggiore cultura, una maggiore educazione della gente, delle imprese, ma anche dei cittadini verso i temi della sicurezza. Ci sono leggende metropolitane terrificanti, la gente che non vuole fare, non so, gli acquisti su internet con la carta di credito, cosa che in realtà fatta nel modo giusto è estremamente sicura, e poi su Facebook tutti quanti raccontano i propri fatti ai 420 e quindi si mettono a rischio di perdita, di furto di identità, di truffe, eccetera. C'è una grave carenza di educazione che porta la gente a assumere comportamenti pericolosi non sapendo di star facendo cose pericolose. Sì, banalmente dire la prossima settimana vado in vacanza. Guarda, negli Stati Uniti ci sono molte compagnie di assicurazione che hanno iniziato ad aumentare la tariffa assicurativa sull'assicurazione sul furto a casa alle persone che hanno un account Facebook, proprio per questo motivo, perché utilizzando tutti i sistemi possibili, adesso sto qui, adesso sto in Florida per 3 settimane, domani parto, eccetera, i ladri vanno a colpo sicuro nella casa perché sanno di trovarla vuota. Eh sì. Bene, io ringrazio Corrado Giustozzi per essere stato con noi, buon lavoro e a presto. Grazie, arrivederci. A proposito di notizie che riguardano la security, proprio di questa mattina notizia che c'è stato un defacing del sito del Tribunale di Milano, cioè è apparso un messaggio di qualche buon tempone, molto minaccioso però, secondo me un po' solo dimostrativo, proprio sul sito del Tribunale di Milano. E anche Facebook ieri ha detto di essersi accorto, cioè il team di sicurezza di Facebook ha detto: ci siamo accorti il mese scorso che siamo stati oggetto di un attacco molto sofisticato, pare che però nessun dato personale sia stato rubato. Questo è 2024, parleremo tra poco di musica liquida digitale in streaming, anche per raccontarvi che cosa sta succedendo nel mondo della musica e anche per sentire il vostro parere su come utilizzate la musica. Ci stiamo spostando da, non so quanti siano già abituati, comunque da un sistema che ci permette, così come succedeva quando andavamo al negozio di musica, di acquistare canzoni, ad un mondo che ci permette sia di ascoltare gratuitamente cose che arrivano dalla rete, ma anche di abbonarci a servizi. È un po' il modello che c'è anche in altri settori che sta arrivando con il cloud computing, cioè un servizio in abbonamento. Pensate ad esempio a Microsoft che ha lanciato recentemente la nuova versione di Office, e anche in quel caso c'è una opzione su abbonamento. Si paga un abbonamento annuale di un centinaio di euro e si ha il servizio, tutti gli aggiornamenti, le novità, eccetera, eccetera. Parleremo anche brevemente del mercato della telefonia mobile tra poco, perché sono usciti dati che poi magari commenteremo in modo più approfondito a partire dopo il 25 febbraio, quando ci sarà il Mobile World Congress a Barcellona. Dicevo, sono usciti dati che riguardano la telefonia mobile, c'è stato un calo leggero dell'1,7% nel 2012, i dati sono stati pubblicati questa settimana da Gartner. Comunque stiamo parlando pur sempre di un mercato gigantesco, è stato venduto 1.750.000.000 di telefonini in tutto il mondo, un po' meno naturalmente sono gli smartphone. Chiamateci, il nostro numero verde è 800 24 00 24. Rispondiamo anche, se sono interessanti, ai vostri sms 349 238 6666, oppure potete utilizzare Facebook, la nostra pagina di 2024, o anche Twitter @ e _ Pagliarini. Ci risentiamo tra poco. 2024, la seconda parte di 2024. Il nostro indirizzo di posta elettronica, se volete comunicare con noi, è 2024@radio24.it. Questa settimana avrete sicuramente sentito, alcuni di voi avranno sentito o letto una notizia diffusa dalla FIPE, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, che ha ottenuto una risposta dall'autorità garante per la protezione dei dati personali. Allora, secondo questa interpretazione, i pubblici esercizi possono lasciare il proprio Wi-Fi a disposizione dei clienti senza chiedere alcuna registrazione. Allora, però a questo punto abbiamo fatto un giro di telefonate attraverso i nostri canali, abbiamo contattato i nostri esperti. Allora, è importante sottolineare che il garante per la privacy interviene e regola il trattamento dei dati personali, quindi sostanzialmente dice: potete mettere a disposizione il Wi-Fi senza dover seguire le procedure tipiche per il trattamento dei dati personali. Quasi tutti noi hanno avuto esperienza e abbiamo tante volte firmato un sacco di cose oppure detto sì su internet a molte domande proprio per il trattamento dei dati personali. Ecco, da questo punto di vista la messa a disposizione del Wi-Fi in ambito pubblico, dice il garante per la privacy, esonera i pubblici esercizi dal dover seguire queste procedure. Allora, questa precisazione del garante però non cambia nulla ai fini della scelta di un esercente di lasciare il Wi-Fi libero o no. Allora, non cambia nulla perché da quando è stato abolito il famoso decreto Pisano, quindi ormai più di 2 anni fa, tutti possono decidere e scegliere di lasciare aperta la propria connessione Wi-Fi anche in ambito pubblico e non esiste un obbligo preciso di registrazione o autenticazione degli utenti. Questo è molto importante, cioè uno può decidere di lasciare il Wi-Fi aperto e nessuno va da quell'esercente a dire no, lo devi tenere chiuso, sei obbligato a registrare. No, c'è libertà di tenere aperto. Allora, il problema però qual è? È che visto che tutte le attività online che avvengono attraverso un hotspot ricadono sotto la responsabilità del proprietario dell'impianto, da questo punto di vista, dal punto di vista penale, nel caso, io ritengo remoto, perché gli hacker hanno ben altre modalità per intervenire, non penso che vadano nell'hotspot di un bar per fare dei danni, però può sempre capitare. Da questo punto di vista rimane la responsabilità in carico all'esercente, quindi rimane, diciamo, la necessità di identificare chi naviga per poter risalire al responsabile nel caso in cui la rete venga utilizzata per compiere un'azione illecita. E quindi da questo punto di vista non cambia nulla. Le possibilità sono duplici: si può tranquillamente lasciare libera la rete prendendosi la responsabilità che possa accadere qualche cosa, devo dire possibilità remota, però esiste questa possibilità. È anche un approccio culturale. Uno dice: sono talmente tanti i vantaggi e l'opportunità di tenere libero il Wi-Fi, ritengo sia oramai adeguata ai tempi in cui viviamo, e quindi mi prendo questo piccolo rischio che possa accadere qualche cosa. Oppure uno decide, proprio per tutelarsi dal punto di vista penale, dice no, utilizzo un sistema di registrazione, di autenticazione, così come ne esistono tanti, oramai molto spesso vengono utilizzati quelli via SMS tramite appunto l'identificazione del telefonino, per tutelarmi, per proteggermi da questo punto di vista rispetto a qualcuno che possa utilizzare la mia rete in modo illecito. Così stanno le cose. Ne abbiamo parlato anche recentemente in una puntata che abbiamo dedicato al Wi-Fi, quindi vi consiglio di andare nel nostro archivio per riascoltarvi quella puntata. Allora, prima di parlare con i nostri ospiti di musica digitale liquida in streaming, volevo parlarvi di alcuni numeri pubblicati questa settimana da Gartner, che trimestre dopo trimestre ci aggiorna sull'andamento del mercato della telefonia mobile. Poi magari approfondiremo questi numeri e questi dati dopo il 25 febbraio, cioè i primi giorni di marzo, perché dal 25 al 28 febbraio si tiene a Barcellona il Mobile World Congress, che naturalmente seguiremo, quindi poi ci saranno ospiti che incontreremo che potranno essere più precisi su questi numeri. Tuttavia, allora, pensate che lo scorso anno, secondo Gartner, sono stati venduti 1 miliardo 750 milioni di telefonini, parliamo di telefonini in generale, con un calo dell'1,7% rispetto al 2011, quindi un po' la crisi si fa sentire. Se noi da questo, all'interno di questo panorama di quasi 2 miliardi di telefonini prendiamo solo la categoria smartphone, allora la categoria smartphone cresce di molto, del 38% rispetto all'anno precedente, ma siamo solo a 207,7, quindi circa 208 milioni di unità di smartphone, quindi su un totale di 1,750 miliardi gli smartphone sono ancora una percentuale sicuramente ridotta, ma crescono di molto. Se andiamo poi a guardare le marche, i brand, a proposito del mercato dei telefonini in generale, Samsung è al primo posto, quindi mantiene saldamente la posizione di maggior produttore di telefonini al mondo. Nell'ultimo trimestre dell'anno è salito al 22,7%. Nokia è scesa dal 23% che aveva nel trimestre precedente fino al 18%. Poi segue Apple 9,2%, ZTE 3,4%, LG Electronics 3,2%, Huawei, cinesi di Huawei 2,9%, TCL Communication, anche questa è un'azienda cinese, 2,4%, Lenovo 1,8%, Sony 1,7%, Motorola 1,7% e poi tutti gli altri che fanno un bel 33,2%, quindi una bella fetta del mercato. Quindi pensate che Samsung e Nokia fanno circa da soli un 40%, poi c'è Apple con un altro 9,2%. Se pensate che Apple ha un solo modello di telefono, sicuramente è una bella fetta del mercato. Allora, se poi andiamo a guardare i sistemi operativi, e quando si guarda al mercato degli smartphone vale la pena di prestare maggiore attenzione ai sistemi operativi, allora Android sale rispetto allo stesso trimestre, il quarter in inglese è qua, è trimestre in italiano. Allora, nel 2011 eravamo al 51%, nell'ultimo trimestre del 2012 Android è salito a quasi il 70%, 69,7%. Poi al 20,9% si piazza iOS, quindi il sistema operativo di Apple, e poi abbiamo un 3,5% per RIM, per Research in Motion, che sapete ha cambiato nome, è diventata BlackBerry, e quindi parliamo del BlackBerry. Microsoft è al 3%, comunque in salita dall'1,8% dello scorso anno, cioè dell'anno precedente, 2011, e poi c'è un altro sistema operativo che beneficia della quota di mercato di Samsung, cioè Bada, all'1,3%, e poi crolla Symbian, che rispetto all'ultimo trimestre del 2011 è dall'11,6% passa all'1,2%. Gli altri praticamente non esistono, perché stiamo parlando di una percentuale dello 0,3%. Quindi in questo caso, se parliamo di sistemi operativi, stiamo parlando di un Android che ha il 70%, di un iOS che ha il 21%, quindi questi due sistemi operativi, questi due ambienti, questi due ecosistemi fanno praticamente tutto il mercato, più del 90% del mercato. Vedremo cosa riuscirà a fare Microsoft, però insomma la gara è sicuramente molto dura e molto competitiva. Bene, questa è 2024, la versione podcast del nostro programma. Ringrazio tutti i nostri ascoltatori che settimana dopo settimana scaricano il file MP3 della nostra trasmissione. Vi consiglio di consigliare, scusate il gioco di parole, anche ai vostri amici e soprattutto ai politici, se conoscete politici anche a livello locale, consigliate ai politici di ascoltare 2024. Abbiamo bisogno di innovazione nel nostro paese, speriamo anche che le elezioni politiche imminenti portano novità da questo punto di vista. Fate attenzione anche a questo aspetto. Bene, adesso parliamo di musica digitale liquida. Benvenuto e bentornato a Paolo Centofanti della redazione di dday.it. Paolo, bentornato, ciao, benvenuto. Poi saluto anche Eleonora Viviani, che è uno dei fondatori di Stereo Mood. Benvenuta anche a te, e proprio a te vorrei fare la prima domanda. Stereo Mood, che cos'è? Che cosa fate? Noi siamo una radio online e su mobile, su devices, che permette di ascoltare la musica a seconda dello stato d'animo. Quindi basta. Per questo vi chiamate Stereo Mood. Sì, rendiamo stereo il nostro stato d'animo. Tutto gratis? Tutto gratis. Sì. Allora, io ho chiamato anche Paolo Centofanti perché all'interno della redazione di D-Day.it Paolo è, potremmo dire, l'uomo della musica, quello che offre le compilation poi anche ai colleghi quando si viaggia. Allora Paolo, vogliamo proprio partire da un concetto. Io dicevo, sta cambiando il modo di ascoltare la musica. Questa settimana è stato annunciato l'arrivo anche in Italia, dopo mesi in cui si attendeva e se ne discuteva, di Spotify. Allora, cosa sta cambiando? Cioè, quali sono i modelli che oggi conosciamo e quelli che si stanno affermando? Allora, noi siamo passati da un'era in cui la musica si ascoltava appunto in radio in modo tradizionale, oppure acquistando un supporto, quindi quello che era il CD o il vinile prima di esso. Oh, naturalmente noi parliamo al passato, in realtà queste cose si fanno ancora, però visto che noi raccontiamo l'evoluzione, come la tecnologia ci cambia la vita, diamo un po' per scontato che questo sia parte del passato. Certo, perché è del passato, perché da, diciamo, Napster in poi, quindi dalla nascita di internet, gli MP3 e del file sharing, il modo di ascoltare la musica è cambiato. Una volta la musica digitale era quasi totalmente qualcosa di, diciamo, illegale, perché la musica veniva scambiata in modo tra privati, però senza acquistarla. Poi l'industria discografica si è adattata, ha cominciato con il digital download, per cui anziché comprare un CD si compravano dei file MP3 o altri formati, comunque musica in formato digitale che si scaricava e poi si ascoltava su iPod, computer o altri dispositivi. Oggi invece arriviamo a un'era in cui la musica non si scarica neanche più, semplicemente si va su una specie di sito web, si seleziona la canzone che si vuole sentire, si schiaccia play e la musica parte istantaneamente. Senti, questi servizi, questi sistemi sono diffusi o sono ancora pochi, sono rari e sono difficili da scoprire? Per una volta questi servizi sono nati in Europa, per poi trapiantarsi e raccogliere consensi soprattutto in Inghilterra e negli Stati Uniti. Adesso anche in Italia cominciano ad essere diffusi come quantità di diciamo, alternative disponibili per l'utente finale. A livello di diffusione in Italia sicuramente siamo ancora un po' indietro, forse Termood potrà darci qualche dato in più su questo, però comunque diciamo che adesso l'offerta comincia a essere veramente consistente con l'arrivo appunto di uno dei player più grandi a livello internazionale che Spotify in Italia, sicuramente la scelta adesso è ampia. Bene, tra poco sentiremo anche i nostri ascoltatori, il nostro numero verde 800240024, tra poco. 2024. Riprendiamo questa puntata, stiamo parlando di musica, ne abbiamo parlato anche la scorsa settimana. La scorsa settimana ci siamo focalizzati sulla qualità e abbiamo detto che ci eravamo abituati, molti si erano abituati alla qualità del CD, poi con l'arrivo della musica digitale questa qualità è caduta, perché sicuramente nella maggior parte di negozi online la qualità è inferiore al CD e questo è scandaloso, però anche su questo troveremo un'evoluzione. Paolo, a proposito di Spotify o comunque anche di servizi analoghi, perché ad esempio esistono altri servizi che magari poi elencheremo e racconteremo, come funziona? Qual è l'approccio? Il primo approccio, ne abbiamo in parte ricordato, è che non si compra più la musica ma ci si abbona a un servizio. Però raccontaci un po' qual è l'esperienza. Essenzialmente Spotify e servizi analoghi cercano di replicare quello che era un po' il modello del file sharing. Se pensiamo a Napster, quando un utente scaricava Napster, arrivava con in mente una canzone che voleva ascoltare, scriveva il nome dell'artista o il titolo della canzone in un motore di ricerca e trovava delle fonti da cui poi scaricare la canzone. Spotify replica un po' questo modello in chiave ovviamente legale, quindi noi siamo accolti da un'applicazione in cui abbiamo una barra di ricerca, scriviamo banalmente quello che vogliamo ascoltare e saremo introdotti alla, se scriviamo ad esempio un artista, alla discografia di questo artista, scriviamo il titolo di una canzone, ovviamente tutti i brani che hanno un titolo simile o comunque cover o quant'altro eccetera, e quindi essenzialmente è un servizio on demand, per cui è l'utente che chiede qualcosa da ascoltare e ovviamente poi lo trova nel catalogo se questo è presente. È un modello quindi in contrapposizione a quella che ad esempio è la radio in streaming, in cui invece è comunque il servizio che propone la musica da ascoltare. Qui certo, è proprio l'utente che va a cercare quello che vuole ascoltare. Sì, la radio online o la radio tradizionale è un modo per ascoltare la radio in modo passivo, quindi si sta lì, si ascolta. In questo modo invece, ecco, risottolineiamo questo cambiamento, che è sicuramente un approccio diverso, un cambiamento anche culturale dipende poi se uno accetta o non accetta di ascoltare la musica in questo modo, cioè io in un negozio digitale compro la musica, compro le canzoni e poi sono mie. In questo caso invece io devo pagare un abbonamento o esiste anche una forma gratuita? Sì, in questo caso io pago oppure ho gratuitamente con pubblicità oppure con offerte promozionali iniziali, eccetera, l'accesso a una libreria, a un catalogo, e all'interno di questo catalogo io posso ascoltare tutto quello che voglio. L'accesso è libero fino a quando io pago oppure fino a quando è attiva la promozione gratuita del momento. Nel momento in cui io non pago, io non posso più ascoltare o accedere a questo catalogo. Servizi come Spotify o Deezer o altri che sono attivi offrono anche la possibilità, soprattutto nei piani in abbonamento a pagamento, anche di scaricare sul dispositivo su cui ascolta la musica per un ascolto offline, quindi per ascoltare anche quando non si è connesse fisicamente alla rete. Anche in questo caso però, nel momento in cui smettiamo di essere abbonati al servizio, la musica che abbiamo scaricato non è più ascoltabile, comunque viene cancellata. Sì. Senti, a tuo modo di vedere, qual è il vantaggio di un servizio di questo genere rispetto al negozio digitale dove io compro canzone dopo canzone? Allora, dipende molto dalle abitudini di ascolto di ognuno, però comunque il vantaggio principale è quello che io ho accesso a milioni e milioni di brani, tradizionalmente con un prezzo al mese che pare a quello di un singolo download di un album da uno store digitale. Quindi sì, perché diciamo che allora, nel caso di Spotify, ma mi sembra che i prezzi più o meno siano analoghi anche per Deezer, che è scritto Deezer, servizio francese, oppure Rara.com, oppure Sony Music Unlimited. Allora, 5 euro al mese per il servizio solo su computer e 10 euro, io traduco 9,99, cioè 10 euro al mese per il servizio su tutti i device, quindi anche sullo smartphone, sul tablet, eccetera, eccetera. Abbiamo detto che invece Stereo Mood è gratuito. Allora, Eleonora, ribadiamo che cos'è, ma soprattutto dove vi ponete. Abbiamo detto che c'è il modello tradizionale dove io scarico le canzoni, c'è questo modello su abbonamento dove posso ascoltare tutto quello che voglio, ammesso che faccia parte del catalogo, e poi naturalmente sul catalogo possiamo discutere sull'ampiezza del catalogo, oppure ci sono le classiche radio online. Allora, io sono un radio man, radio guy, cioè mi piacciono molto le radio e ascolto un sacco di radio, e trovo anche molto bello ascoltare le radio online di tutto il mondo in modo passivo, perché non ho così tanto tempo, io me le ascolto, me le metto in sottofondo, eccetera eccetera, perché sicuramente i sistemi di questo genere richiedono dell'attività, cioè devo andare a scegliere le canzoni. Cioè, Stereo Mood che fa? Dov'è? Dove si trova? Stereo Mood è un aggregatore, quindi noi facciamo streaming da terze parti, quindi attraverso una selezione di blog che abbiamo fatto e sfruttando le API di SoundCloud, che è un altro servizio di musicale tedesco, trasmettiamo, aggreghiamo tutti questi MP3 e li aggreghiamo in playlist per mood o attività o stato d'animo. E cioè, il mood è lo stato d'animo. Sì, sì. No, lo traduco visto che siamo alla radio mainstream. Senti, tutto legale naturalmente. Tutto legale. Non ti avremmo invitato se fossi una che fa attività illegale. Ma ecco, visto che è tutto gratuito, cioè uno può paragonare Stereo Mood a una radio. Io scelgo lo stato d'animo, cioè dico mi sento felice, clicco su lo stato d'animo felice, voi mi proponete una playlist, quindi è una sorta di radio, giusto? Sì, è una sorta di radio, puoi interagire con la radio. Ecco, la radio tradizionale guadagna dalla pubblicità, voi come guadagnate? Al momento abbiamo cambiato, anche noi fino a dicembre guadagniamo da advertising, quindi da pubblicità. Stiamo testando una serie di modelli di business nuovi e a marzo lanceremo una novità. E, per adesso guadagniamo per esempio dall'affiliazione, quindi dalla vendita degli MP3 online su Amazon e iTunes, che andremo a migliorare, perché ci sono tutta una serie di store anche online che non sono solo quelli mainstream come iTunes e Amazon, dove si possono trovare anche tutti gli artisti emergenti che noi abbiamo, tipo Bandcamp, 7digital o altri store country. Ma in generale, visto che tu fai questo di mestiere, giusto? Sì. Ti occupi di musica. In generale, come si guadagna in questi settori? Cioè, quali sono i modelli di business? Allora, abbiamo capito che uno è vendo canzoni e la canzone te la vendo ed è tua. Tutti gli altri servizi, cioè quali sono le varie modalità che tu vedi sul mercato oggi affermarsi? Poi vedremo se funzioneranno, perché attenzione, molti di questi servizi Spotify in primis, sono in perdita. Noi fra qualche anno potremmo anche parlare di questi servizi al passato, non è detto che funzionino, sono un'alternativa e una proposta. Esatto, sì. Ma non sono tantissimi, nel senso che i principali sono quelli della vendita dei brani musicali, quindi di affiliazioni con store, gli account premium, quindi la vendita di un servizio che ti dà delle caratteristiche in più, come la rimozione dell'advertising o la riproduzione offline di questi della musica, e basta principalmente, perché poi ci sono modelli di business, diciamo, ibridi, ma sono sempre basati su queste attività, a meno che non si vada a fare una collaborazione con terze parti in cui tu vai a pagare sempre comunque un servizio su applicazioni mobile o su devices che sono tablet per la macchina o cose comunque che vanno al di là del web o del telefonino. Senti, vedo che nel mercato ci sono tantissimi servizi di questo genere, cioè vedo che la musica è un mondo dove nascono molte start-up, dove ci sono moltissime proposte. Per quale motivo? Perché costa poco fare una start-up offrendo musica? Cioè, perché? Perché piace molto la musica? C'è un grande mercato. Io parlo personalmente, è una voglia di creare qualcosa seguendo la nostra passione, che è quella per la musica, è quella di offrire un servizio ad hoc per gli utenti. Quindi far conoscere un certo tipo di musica che viene, diciamo, un po' messo da parte nei grossi servizi mainstream, come possono essere Spotify o Deezer o cose così, e ci siamo, diciamo, focalizzati solo su un certo tipo di musica inizialmente. Sì. Allora, naturalmente già ieri su Facebook, ma anche oggi, i nostri ascoltatori scrivono e parlano di un servizio che effettivamente anche a me piace molto, ma le case discografiche ritengono che sia illegale, però finché non trovano il giudice giusto rimane in piedi, che è Grooveshark. Grooveshark è un servizio di musica online completamente gratuito, devo dire che non è che si trova poi tutto e non sempre di buona qualità. Paolo, ribadiamo quali sono i servizi più popolari, a partire da Spotify, che esiste in Italia da questa settimana. Allora, oltre a Spotify, appunto, che è partito adesso, c'è che è attivo da almeno un anno, è tornato da almeno un anno in Italia, che è Deezer, che appunto è francese, che ha caratteristiche molto simili a quelle di Spotify, anche lì un catalogo di milioni di brani da ascoltare, possibilità di ascoltare su tablet, smartphone, con i piani a pagamento. Poi c'è Sony Music Unlimited, che è un altro servizio, che uno dei primissimi che è arrivato in Italia, appunto con Sony, inizialmente solo sui prodotti Sony, quindi televisori, PlayStation, lettore Blu-ray, ma che poi si è lanciato anche su Android e smartphone Apple, appunto iPad e iPhone. Poi c'è Xbox Music, che invece è la proposta di Microsoft, questa sempre legata all'ecosistema Microsoft, quindi PC e tablet con Windows 8, Windows RT, Windows Phone 8 e appunto PC e Xbox, naturalmente la console. Poi abbiamo un altro, diciamo che possiamo dividere i servizi in due, quelli multipiattaforma, comunque indipendenti, e poi appunto quelli legati invece a dei marchi storici famosi. Abbiamo parlato di Sony, Microsoft, ultimamente si è lanciata anche Samsung, che ai possessori di Galaxy S3 e Galaxy Note 2, se non sbaglio, offre anche lì un servizio di musica in streaming che si chiama Samsung Music Hub. Piacerebbe sapere se poi la gente utilizza questi servizi. Allora chiamateci, tra poco sentiremo i primi degli ascoltatori che ci hanno incuriosito, che hanno chiamato il nostro numero verde 800240024. Riprendiamo tra un paio di minuti. 2024. Ci sono due notizie che riguardano Apple, che questa settimana ha deciso di fare ricorso contro la decisione dell'ufficio brevetti brasiliano, che per ora ha vietato alla Apple l'uso del marchio iPhone in Brasile. Il nome è stato infatti registrato nel 2000 dalla società brasiliana Gradiente Elettronica. Andrà a finire che l'Apple dovrà dare un po' di soldi a Gradiente Elettronica per utilizzare questo marchio. Sempre per quanto riguarda Apple, pensate che Apple potrebbe ricevere circa $1 miliardo da Google per mantenere Google come motore di ricerca principale sui dispositivi di Apple, quindi iPhone e iPad in primis. C'è un accordo in base al quale appunto l'impostazione di default, cioè l'opzione principale del motore di ricerca quando si fanno le ricerche, ad esempio nel navigatore, quindi nel browser Safari, l'impostazione principale è sul motore di Google, e Google grazie a questa impostazione riceve un sacco di traffico e quindi genera molti soldi dalla pubblicità, e quindi è disposta a pagare, secondo stime che sono state fatte, fino a $1 miliardo. Comunque non pagherà molto meno, se questa stima non è proprio precisa. Il nostro numero verde 800240024, gli sms 349-238-6666. Potete utilizzare anche la nostra pagina Facebook, andate su 2024, oppure anche Twitter e _ Pagliarini. Francesco da Lucca, buongiorno Francesco, benvenuto. Pronto, buongiorno, grazie per avermi chiamato, complimenti per la trasmissione. Grazie molto, prego. Salve, io volevo parlare di GrooveShark, che è un sito che ho scoperto circa un anno fa e di cui sono subito appassionato, diciamo, perché è molto facile da utilizzare, e semplicemente inserendo anche la propria mail e una password, cioè una user e una password, permette di ascoltare, a parte, diciamo, un motore di ricerca su cui cercare tutte le canzoni, diciamo, tutti gli artisti, un po' come Last.fm o altri siti, e ci sono molte radio online, cioè dentro il sito, che si possa ascoltare per genere, rock, classica, eccetera, eccetera, e ti fa, diciamo, con le tue user ti fa di ascoltare i brani degli artisti che ascolti più spesso. L'unica pecca probabilmente è che è gratis se vai su PC, $5 al mese mi sembra, se per, sì, no, ma per è chiaro, è chiaro, però tu sai che è, almeno le case discografiche, alcune case discografiche ritengono che sia illegale, cioè sai che potrebbe, diciamo, non dico da un giorno all'altro, però potrebbe scomparire questo servizio. È chiaro. Io ho comprato pure la maglietta di GrooveShark, sono veramente. Beh, vabbè, la maglietta te la lasciano, penso, te la vengono requisiti. Meno male. No, sì, insomma, comunque sì. è poco filtrato, perché ognuno può caricare la musica, questo sì, è la pecca. E quindi, cioè, magari viene caricata una canzone di un artista che non è magari di quell'album, che non è quello. Senti, Francesco, tu ascolti anche altri servizi? Hai provato altri servizi io del genere? Ho provato Last.fm, ma non mi ha trovato molto bene, anche se avevo anche comunque facile in quella, però Last.fm dava sempre dei problemi, un tot di canzoni si fermava, invece Crucial, che è molto più fluido. Sì. E no, sinceramente non ho provato altri servizi, a parte YouTube, ma non è per la musica. No, esatto. Solo per, assolutamente bene. No. Francesco, grazie molte per averci chiamato. Dunque, Paolo, stiamo parlando, sei d'accordo che questi servizi, ad esempio Spotify, devo dire, fatto molto bene, ha un'applicazione fatta molto bene, ma sei d'accordo che questi servizi richiedono tempo? Cioè, questo è in parte oggettivo, nel senso che se ascolto una radio online sono passivo, sto lì fermo, faccio le mie cose, e c'è qualcun altro che pensa alla musica. In questo caso io devo fare delle cose, delle proposte. Ma è un po' come entrare in una libreria senza non avere bene in mente che libro comprare, no? Quindi se la libreria è molto grande ci perderà molto tempo a spulciare tra i vari scaffali alla ricerca di qualcosa che ci possa interessare. Direi che il funzionamento è prettamente analogo, nel senso che abbiamo tipo Spotify qualcosa come 20 milioni di brani, un catalogo veramente sterminato, e se uno non sa cosa ascoltare in quel momento può perdersi. Questo è anche il motivo per cui questi servizi, comunque in genere, quasi tutti includono anche delle radio più o meno interattive, che sfruttano il loro catalogo a disposizione per generare appunto delle radio a tema, per cui un utente che arriva e non ha ben chiaro cosa vuole ascoltare quando si sveglia la mattina, per dire, lancia una di queste radio, e così almeno ha delle proposte su cui utilizzare come punto di partenza. Sì. Sarebbe interessante anche, ma questo lo scopriremo solo fra qualche anno, sapere quanti sono gli utenti disposti a pagare per un servizio di questo genere, perché è vero che 10, parlo del servizio completo nel caso di Spotify, di Deezer e anche di Sony, mi sembra che costi grosso modo quei soldi, 10 euro al mese più o meno, quasi tutti si sono allineati, quanti sono disposti a pagare questo per avere un servizio, quindi un catalogo completo di musica all'interno del quale poi poter andare a scegliere. Sicuramente, Eleonora, ti voglio proporre questo tema, sicuramente rimane un problema, che il consiglio che questi servizi mi danno per scoprire nuova musica non è ancora così sofisticato, cioè il commesso del negozio che mi, se è bravo, che mi consiglia un brano musicale oppure una band alternativa in base ai miei gusti, forse ancora superiore. Questo è un problema all'interno del quale voi state operando, ad esempio. Sì, sì, noi stiamo operando proprio perché abbiamo fatto una scelta editoriale, musicale, che è quella di legarci a principalmente artisti emergenti. E quindi attraverso la tipologia di ascolto, che quale, quella per mood, che ti permette di non partire, come per esempio Spotify, da una, già da un artista, ma parti da uno stato d'animo, ci permette di essere un grosso strumento di discovery musicale. Quindi non è importante l'ascolto dell'artista mainstream, ma l'attinenza del brano che stai ascoltando a quello che hai scelto di ascoltare. Sì, per sei molto. D'accordo, Paolo, che questi servizi sono ancora poco bravi e capaci nel suggerirmi cose nuove? Ma sì, abbastanza, nel senso che, cioè, oddio, appunto le radio come streaming, come Stereo Mondo, sono molto bravi in questo, perché appunto interpretando lo stato d'animo riescono a trovare sicuramente qualcosa di nuovo che non conosco, che può piacermi e che poi posso andare ad approfondire. Molti servizi analoghi attivi in Europa secondo me non sono così bravi a suggerire. Mi è capitato di c'è un servizio che si chiama Aupeo, per esempio, tedesco, che vorrebbe essere una specie di risposta a Pandora, che però in realtà non ci azzecca proprio. Sì. Cioè... come si chiama? Aupeo. Aupeo. Au. Aupeo. Ecco, pronunciamo bene perché così si capisce. Hai pronunciato Pandora. Questo è un altro grande servizio. Molti si aspettano che arrivi anche in Italia, ma ancora non abbiamo notizie. Come funziona Pandora? Perché è famosa? Perché è famosa? Pandora, ecco, è forse l'unico che funziona veramente bene in questo, ma perché è anche estremamente più complicato nel suo funzionamento. Utilizza un algoritmo definito Music Genome Project e analizza, praticamente non funziona per etichette di tipo di generi musicali oppure per associazioni tra artisti o generi musicali. Funziona analizzando proprio le proprietà di una canzone, quindi il ritmo, gli strumenti impiegati, il tipo di scale maggiori, minori e cose del genere. E per cui è veramente bravo a imparando dal pattern di canzone che mi piace o non mi piace, è bravissimo a imparare anche saltando da un genere completamente diverso a trovarmi delle canzoni che possano piacermi per davvero. E l'ho provato, personalmente, devo dire che effettivamente ha trovato cose che mi piacevano, che già magari conoscevo, che però non c'entravano niente con quello che avevo ascoltato fino a poco prima. E insomma, è abbastanza impressionante da quel punto di vista. Sì, Paolo Centofanti utilizza questi sistemi che esistono solo negli Stati Uniti, tant'è che tu da quanti mesi usi Spotify? Un paio d'anni. Ecco, un paio d'anni, perché utilizza delle cose che, vabbè, gli esperti le sanno, cioè proxy, insomma servizi per ascoltare e per vedere anche cose che sono disponibili solo in altri mercati, però diciamo gli utenti normali di solito non lo fanno, anche per pigrizia, ma io stesso, insomma, perché devo andare a perdere tutto questo tempo? Ci sono un sacco di bellissime radio online. Andrea da Firenze, buongiorno. Buongiorno, buonasera. Prego. Allora, io volevo fare solamente una piccola segnalazione, visto che parlavate di servizi di streaming online. Io proprio ieri ho fatto l'abbonamento per uno di questi siti, che non so se posso dire il nome, comunque si chiama... Lo dica, certo, che paura. Lost FM, e praticamente dopo aver pagato i 3 euro mensili di abbonamento, quindi non è che siano una grossa cifra, però mi viene su scritto che il servizio non è disponibile per l'Italia, per motivi di royalty, spesso di copyright, delle case discografiche. Il servizio di streaming o di ascolto musicale di radio online non era disponibile per l'Italia. Questo dopo aver pagato l'abbonamento. E quindi? È stata una segnalazione su... Cioè una segnalazione di non fate l'abbonamento se siete in Italia. Come si chiama, ha detto? Last FM o Lost FM? Last FM. Ah, perfetto, Last FM. Paolo, ti risulta che non sia disponibile in Italia Last FM? No, mi risulta che da qualche mese ha praticamente tolto l'accesso alle radio personalizzate al di fuori degli Stati Uniti. Credo che abbia ridotte solo agli Stati Uniti. E quindi Andrea ha fatto questo abbonamento, vabbè, insomma, lo utilizziamo come segnalazione. Bene, ecco, una cosa che è un aspetto molto interessante è l'aspetto social di questi servizi. Allora, ne abbiamo parlato, o meglio, Marta Cagnola ne ha parlato con Veronica Di Quattro, che era responsabile di Spotify per l'Italia, ed è interessante questo aspetto, perché in qualche modo, in un modo sicuramente particolare, viene incontro anche alle esigenze di scoperta musicale di altri brani. Uno degli aspetti principali di Spotify, anche uno dei punti di differenziazione, è proprio questa integrazione social, dove non solo, questo è importante da dire, ti puoi registrare non solo con il tuo account Facebook, come ad esempio i miei cugini e sai, quelli più giovani, ma anche con un account creato appositamente per Spotify, appunto tipo mio padre si è creato l'account esclusivamente per Spotify, e l'integrazione ti permette di vedere la musica che i tuoi amici di Facebook ascoltano, quindi in maniera diretta ed immediata, con un newsfeed molto simile a quello che appunto siamo abituati a vedere su Facebook, ma ti permette anche di condividere le playlist, di creare delle playlist collaborative, di crearle insieme, di inviarle e anche di poi condividerle sul tuo blog o su altri social network, su Twitter e quant'altro. Quindi proprio anche l'integrazione social, non solo dal punto di vista della funzione following, della funzione follower che ho menzionato prima, quindi non solo per gli artisti, ma anche e soprattutto per i tuoi amici, che poi ovviamente la musica che ti viene suggerita dai tuoi amici è quella al quale crediamo di più, no? E quindi diciamo innesca poi questo processo di scoperta a vicenda. Beh, allora diciamo che tutti i servizi ormai, non solo Spotify, permettono il login, quindi la registrazione tramite o un profilo che si crea al momento oppure tramite quello di Facebook, lo fanno tutti. Però detto questo, Paolo, i servizi di stream musicale su abbonamento, un po' tutti fanno questo, hanno questo servizio di consiglio tramite quello che fanno i miei amici. Sì, cioè è duplice, nel senso che tipo anche in Deezer posso vedere quello che stanno ascoltando gli altri miei amici di Facebook, o anche se non sono registrati a Facebook. E come questa è una cosa che aveva lanciato Last.fm, praticamente questi servizi tengono traccia di quello che sta ascoltando, e quello che si riferiva appunto la signorina di Spotify, sì, è il fatto che viene lanciato una specie di feed nel registro delle attività laterali di Facebook, in cui posso vedere i miei amici cosa stanno ascoltando. Sì, sicuramente questo è un suggerimento. Cioè io ieri sera ho fatto una prova, vedevo quello che ascoltavi tu, cose bruttissime che non mi piacevano per niente, però quindi in quel caso non mi hanno suggerito molto, però io ho mandato, ad esempio, ti ho mandato un suggerimento, poi non so se tu hai detto la stessa cosa di quello che ho detto, però sicuramente è un aspetto. Ecco, Stereo Mood ha una cosa del genere, oppure siete voi come redazione musicale che suggerite agli utenti? Noi ce l'abbiamo con Twitter, questa cosa qua, quindi ogni volta che un utente che ha fatto il Twitter Connect può dire come si sta sentendo in quel momento con un tweet su Twitter. Introdurremo anche questa cosa nei feed di Facebook, e da noi non è proprio legata all'artista, ma è legata allo stato d'animo. Quindi io mi sto sentendo felice ascoltando una determinata canzone. Certo, questo rimane, quello dello stato d'animo rimane per voi la condizione principale, sì, per esatto, offrire i servizi, sì, per suggerire eccetera eccetera. Esatto. Quindi nel caso che io voglia ascoltare della musica jazz, come faccio a scegliere la musica jazz? Devo per forza passare da uno stato d'animo, cioè devo dire sono felice? Puoi dire semplicemente che ti senti jazzy. Perché esiste lo stato esatto, d'animo jazzy. Ci fermiamo per un minuto, riprendiamo tra poco. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Quanti utenti ha Stereo Mood ad oggi? Ad oggi siamo arrivati quasi a 800.000 utenti registrati. 800.000 utenti registrati, ribadiamo che questo è un servizio gratuito e che guadagna solamente nel momento in cui questi 800.000 o anche uno comprano una canzone dai negozi che sono affiliati, cioè quando al momento, sì, io sono un vostro utente, compro una canzone su iTunes Store, una parte di soldi finisce nelle vostre tasche, esatto, giusto? Sì. Funziona così. Vi aspettate che gli utenti, cioè il potenziale di crescita di questi servizi sono di milioni di utenti, o voi siete, anche per motivi diciamo legati alla scelta musicale, legati ad una nicchia? Diciamo legati ad una nicchia, ma la nicchia sicuramente l'abbiamo visto anche con il caso di SoundCloud nei mesi scorsi, che può esplodere. Cioè comunque la nostra crescita è migliorabile assolutamente adesso, possiamo arrivare benissimo a duplicare, triplicare il nostro bacino di adesso. Sì. Paolo, diciamo che sicuramente è uno dei servizi più noti e più utilizzati al mondo, come Spotify, ha quanti milioni di utenti nel mondo? Se non sbaglio, le ultime cifre parlavano di 15 milioni di utenti. 20 milioni di utenti, direi. Okay. Sì, 20. Sì. Sì, sì. 20 con milioni però paganti, sì, sì. Di 4-5 milioni paganti. Sì, sì, sì, esatto. A proposito di servizi e di funzionamento di questi servizi, sempre Veronica Di Quattro, che è stata intervistata da Marta Cagnola questa settimana, ci dice, ci racconta come vengono retribuiti gli artisti, perché questo è un tema molto importante, molto interessante, perché molti artisti non sono contentissimi di questi servizi perché dicono guadagniamo troppo poco. Sentiamo come funziona. Certo, allora è importante dire che ogni riproduzione viene monetizzata, quindi ovviamente non entro nel dettaglio delle specifiche, ma abbiamo degli accordi con tutte le case discografiche. In Italia ovviamente entriamo con gli accordi con le principali etichette, ma anche con le etichette indipendenti e gli aggregatori musicali. Gli artisti hanno dei contratti individuali con le etichette. Quello che noi possiamo dire è che noi diamo il 70% dei nostri ricavi indietro alle case discografiche e detentori dei diritti delle canzoni, che vengono poi redistribuite agli artisti. Quindi in questo modo l'artista, diciamo, guadagna su ogni streaming, quindi su ogni riproduzione che viene monetizzata. Ovviamente c'è anche un discorso sulla base della popolarità, quindi quanto più una canzone viene ascoltata, quindi quanto più un artista magari raggiunge le top classifiche, quindi le canzoni più ascoltate, tanto più la sua canzone viene riprodotta e tanto più ovviamente ci sarà una monetizzazione della riproduzione. Eleonora, come funziona per Stereomod la retribuzione degli artisti? Visto che tu hai specificato che vi rivolgete soprattutto a band emergenti, artisti emergenti. Ma noi siamo un prodotto in streaming, aggreghiamo, quindi non pensiamo alla retribuzione direttamente per gli artisti. Paghiamo le collecting society che... Allora, le collecting society, lo traduciamo perché bisogna tradurre qua, sono le società come la SIAE, ad esempio, per gli editori e gli autori che raccolgono soldi per poi redistribuirli agli autori e agli editori. Agli artisti, certo. Sì, esatto. Quindi pagate a SIAE, in quel modo diciamo avete risolto il problema. Sì, SIAE e altre collecting societies canti nei vari countries dove siamo worldwide. Sì. Senti Paolo, tra i servizi che esistono in Italia, che cosa hai provato più spesso e che cosa ti piace di più? Allora, Spotify sì. Sì, li ho provati più o meno tutti. Recentemente anche Xbox Music su Surface, che tra l'altro è un servizio abbastanza ben fatto, pur essendo comunque vincolato all'ecosistema di Microsoft. Spotify è quello che mi è piaciuto di più, primo per la vastità del catalogo, forse perché anche ho dei gusti abbastanza particolari, soprattutto dal punto di vista degli indipendenti eccetera, e da questo punto di vista Spotify è quello che è riuscito a raccogliere veramente quasi tutto praticamente, salvo qualche rara eccezione. E poi è molto bello il sistema la piattaforma di applicazioni che ha realizzato Spotify, che all'interno della sua applicazione permette poi di utilizzare altri servizi che vanno dalla raccomandazione, come ci sono applicazioni di famose riviste come Rolling Stone, piuttosto che blog come Pitchfork, che danno dei suggerimenti, recensioni, che poi uno può andare direttamente ad ascoltare, sia sistemi di ascolto social come Sounddrop, che permette di creare delle sale di ascolto pubbliche in cui ci si può ritrovare tra appassionati di un particolare genere musicale o piuttosto che di un artista, per ascoltare tutti insieme una playlist dinamica che viene creata dagli stessi ascoltatori contemporaneamente. Cioè tu vuoi dire che con questa applicazione tu crei all'interno di Spotify una sala d'ascolto, mi inviti e io vengo a ascoltare la musica. Esatto, cioè ascolto la musica dal mio terminale, non è che vengo a casa tua. No, l'ascolti sul tuo, sincronizzata con me, quindi ascoltiamo la stessa cosa. È un sistema che ha usato ad esempio gli Smashing Pumpkins per presentare il nuovo disco, hanno utilizzato Sounddrop per creare un ascolto in diretta tra loro e tutti i loro fan, all'interno però ovviamente di Spotify. Certo. Andrea Dacchieti, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, salve Pagliarini, io vi ascolto da moltissimo tempo, ma purtroppo vi ascolto sempre in podcast o la notte, perché... Invece oggi festeggiamo e quindi ci hai potuto chiamare. Ecco, però purtroppo vi sto ascoltando da pochi minuti, quindi magari faccio una domanda che è stata... No, la domanda è giusta, le scegliamo apposta. Ascolti, io vorrei sapere se posso, se potrei utilizzare Spotify senza installare nulla, perché io... Spiego, ascolto, fruisco del servizio di Groove Shark da qualche anno con molta soddisfazione, anche se la qualità purtroppo è infima e questo fa il paio con l'argomento che ha trattato con Giardina la settimana scorsa, sì. Però insomma a me interessa poco il lato emozionale, quindi non interessa avere un suggerimento emozionale, perché la musica, essendo appassionato, me la cerco da solo, quindi vorrei capire se analogamente a Groove Shark potrei usufruire del servizio Spotify senza installare nulla, perché l'idea di installare qualcosa nel PC mi è sempre abbastanza antipatica. La domanda è ottima, devo dire che installare qualcosa nel PC può risultare antipatico, però migliora molto l'utilizzo, tant'è che ad esempio uno dei grandi successi di iTunes è proprio il fatto che si può installare, è stato scelto di utilizzare un client da installare sul PC proprio per migliorare la fruizione. Paolo, dobbiamo fare una distinzione, ed è interessante la domanda del nostro ascoltatore, perché alcuni di questi servizi sono basati completamente su internet, quindi web based, e altri invece come Spotify richiedono il download, quindi l'installazione di un'applicazione, cioè proprio di un software che gestisce tutto quello che noi ascoltiamo. Sì, allora diciamo che il nostro ascoltatore, se vuole un servizio simile a Spotify ma solo basato sul browser, può usare ad esempio Deezer, che è completamente una web app, quindi si utilizza solo col browser e non deve installare assolutamente nulla. In realtà anche Spotify ha lanciato per adesso in beta una web app, per cui una versione che si può usare sul web, però appunto al momento è ancora in beta, non è ancora stata lanciata a tutti i suoi utenti. L'altra cosa però, appunto, come dicevi, che l'applicazione in realtà dà qualche vantaggio, ad esempio uno di questi è l'ascolto senza pause, oppure l'avere una dissolvenza incrociata tra quando passa da un brano a quello successivo. Sono piccole cose magari, però ad esempio appunto se sto ascoltando un disco dal vivo, avere delle interruzioni tra una canzone e l'altra di solito è sempre fastidioso. Sì, questo è solo un esempio. Sì. Nel vostro caso Stereo Mode è tutto online, cioè tutto web based? Web e mobile. Sì, però diciamo sul computer non devo installare nulla. C'è un aspetto molto interessante che oggi purtroppo non abbiamo il tempo di toccare. Non so se Stereo Mode si spinge fino all'analisi dei dati di ascolto degli utenti, il grande tema del big data e dell'analisi che si possono fare sui dati. Fate qualcosa del genere? O non ancora? Di metriche? Cioè di ascolto? Sì, diciamo che uno dei grandi temi, io e Paolo ne abbiamo parlato recentemente, abbiamo letto alcune cose che stanno facendo soprattutto negli Stati Uniti, e sicuramente Spotify fa questo in collaborazione con le case discografiche, studiare il modo con cui vengono ascoltate le canzoni, incrociando questi dati con gli utenti, i luoghi dove vengono ascoltate queste canzoni, i momenti in cui vengono ascoltate le canzoni, è sicuramente molto interessante. Anche capire se una canzone viene ascoltata per intero oppure viene ascoltata fino a metà è una fonte di dati incredibili che può essere incrociata. Questo lo fanno molti altri servizi ed è uno dei grandi temi quando si parla della rete. Dunque non abbiamo parlato, perché oggi abbiamo parlato di musica, di un servizio che però gli ascoltatori mi hanno chiesto di citare, che è Netflix, che è un po' lo Spotify del video, che ancora non esiste in Italia, è sbarcato in Europa, nei paesi del nord, in Irlanda e in Gran Bretagna. Vedremo se nei prossimi mesi arriverà anche nel nostro paese. Bene, abbiamo concluso questa puntata di 2024. Adesso mettiamo anche la nostra base ufficiale. Grazie a Pietro Lacorte che si è occupato della parte tecnica, Giorgio De Luca che ci ha assistito in redazione. Grazie a Eleonora di Stereo Mode. In bocca al lupo, a presto. Crepi, grazie a tutti. E grazie anche a Paolo Centofanti che ha partecipato alla nostra trasmissione, l'esperto di musica, potremmo dire, del magazine digitale D-Day.it, ma non solo di musica. Paolo, grazie per essere stato con noi, a presto. Grazie a voi. Noi ci risentiamo la prossima settimana. La prossima settimana vi anticipo che parleremo di un tema estremamente interessante, che è quello dei pagamenti elettronici. Usciranno dei dati questa settimana, quindi avremo modo di commentare questi dati, ma sono nati anche alcuni servizi e quindi effettivamente sta succedendo qualcosa anche sul lato dei pagamenti elettronici, dei pagamenti in mobilità, dei pagamenti liquidi. Così come esiste la musica liquida digitale, esistono anche i pagamenti liquidi digitale. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024 e radio24.it. Appuntamento alla prossima settimana. 2024. 31 seconds and we're going for auto sequence start.